oggi con l'ansia. Ho un fantasma come braccio destro. Faccio questo, non dormo, non è che mi alzo presto. Vivere così, non lo sai mai complesso. Voglio quello che non mi è stato mai concesso, come Michael Jackson. Entro forte, perché è l'unica cosa che so fare. Qua nessuno crede che ci sto male. Faccio un altro disco se mi devo sfogare. 100 volte e non ce n'è stata una normale. Ti prego, portami lontano dal sistema solare. Dici smettila, che la vita tua è bellissima. Sì, un giorno ogni tanto, come un'eclissi fra. Che quando mi risveglio e lei non mi risponde, nel cuore una scossa sismica. Non scrivo niente per un mese, non ho più forza artistica. Ma tu ascolti, solo quando dico che mi prendo bene. Solo quando dico che mi sento bene. Perché ti fa comodo e a te conviene. Ma sto male, come te. Possiamo stare in mezzo al vento insieme. Possiamo stare in mezzo al vento insieme. Che la gente dopo il mio concerto viene fra. Questa merda spacca le casse. Esce fuori e salva le masse. Come se la gente importasse. Che dopo non resta più niente per me. Che dopo non resta più niente per me. Che dopo non resta più niente per me. Niente per me. Quando ero piccolo dicevano di no. Davide, puoi aspettare ancora un po'. Mi sa di no. Perché adesso loro sanno che non possono più farmi nero. Non vi ho sentito dire quello che fate davvero. Io da quando l'ho fatto la prima volta scrivo è vero. Se non fosse così sareste in un cimitero. Tra questi che fanno finta di evolversi e mi dicono che nel 97 io non c'ero. Penso di merda, c'avevo 9 anni e stavo sotto casa a giocare a pallone e a guardare il cielo. Adesso no. Adesso la notte mi sposa come fossi l'unico. Sveglio nel raggio di miglia senza una famiglia, però con un mare di pubblico. Guardo la luna, la supplico, le dico che stavolta mi ricordo di tutti. Oppure mi stacco la testa da subito. Voglio la vita di un re, non questa da subito. Scendo tra le montagne dell'ego. Mi apro da fuori e vedo che c'è dentro. Nelle vene ho cemento. Fino a qua tutto bene. Non devo pensare a ieri. Nel mio inferno quando vieni. La merda spacca le casse. Esce fuori e salva le masse. Come se la gente importasse. Che dopo non resta più niente per me. Che dopo non resta più niente per me. Che dopo non resta più niente per me. Niente per me.